più della mia vita. Io non so quantificare il peso, ma per te posso dire di essermi annullata, di aver lasciato tutto per un salto nel buio. Ho durato quasi 25 anni e non essermi curata di me stessa, riducendomi uno straccio che sono ora, ma senza pentimenti. Senza pentimenti. I tuoi pensieri su pezzi di carta lasciati appesi con una calamita al frigorifero spento. I tuoi messaggi su pezzi di carta parlano di ieri come una poesia che anche domani puoi scrivere. Della mia vita, senza rimpianti, anche nei giorni più tristi, il peso si fa leggero quando nel silenzio parla l'amore. Potrei dire tante cose, ma un sorriso ha preso il posto di tante parole. È stato un salto nel buio, l'illusione di quando hai 30 anni, per quanto dura, la vita era più semplice con te. Con te. Senza pentimenti, senza rimpianti. Senza pentimenti.